Che dimmi ancora se ci rivedi dentro quel che io vedevo in te. La tua faccia stanca e la mia foto sul cuscino, quella anni 90 sul balcone da bambino. Ti ho promesso il mio amore per l'eternità, però tutto ad un tratto c'è qualcosa che non va. Televisione accesa e qualche mezza verità, anche questa sera non ci sono novità. Così aspettiamo un gran finale, come in un